il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Oggi parliamo di uno dei musicisti che a pieno titolo possono essere considerati immortali, uno dei più grandi musicisti non pop, quelli che sono usciti dal pop, che hanno rivoluzionato la musica rock, la musica contemporanea, che hanno saputo costruire grandi orchestrazioni musicali, però è uno che ha suonato anche alla Scala di Milano, è uno che è stato diretto da Pierre Boulez. Quindi un numero uno assoluto, Frank Zappa. E parliamo anche grazie al fatto che ci sono molti ascoltatori, tra cui Maurizio Costacurta di dove? Non lo so, perché adesso glielo chiedo, che hanno chiesto di Frank Zappa. Maurizio Costacurta da Genova, Enrico. Da Genova. Buonasera. Eccoci. Perché ti piace Frank Zappa? Cosa trovi di diverso in lui? Io posso dire che secondo me non è diverso da niente, perché è veramente l'unico, irripetibile, certo. E non ha pari, non ha paragoni, ha degli imitatori, peraltro anche due italiani, se vuoi, possiamo citarli, il mitico Elio e Caparezza, ma sì. Nessuno prima di lui e nessuno dopo è stato in grado di fare quello che ha fatto lui sul piano musicale, artistico, teatrale. Ha inventato un modo nuovo di suonare, grazie anche a Capitan Beefeater e a Ian Underwood. Ma Frank Zappa, tra musica, teatro, politica fatta non come Bob Dylan, ma fatta bene, cioè lui portava la gente a firmare per iscriversi alle liste elettorali, non diceva sì. Fate politica, era un pragmatico, andare a votare, cioè era faceva tutto e lo faceva anche benissimo. Un grande da tutti i punti di vista. Goditi la puntata, grazie per averci aiutato, perché hai già fatto un cappello introduttivo di grande pregio. Grazie Maurizio. Grazie mille. Ciao Enrico, grazie. In questo mondo di stereotipi, date a un uomo un grande naso e dei capelli strani ed egli sarà capace di qualsiasi cosa. E partiamo già con un paradosso provocatorio. E lui in effetti aveva un bel naso aquilino, aveva capelli folti, neri come il carbone, che ha sempre portato molto lunghi. Aveva una grande capacità di concentrazione sul lavoro. Beh, riusciva a lavorare 12 ore al giorno, tipo me, però teneva dietro una band di tantissimi elementi e eseguiva partiture molto complesse anche quando sembrava che stessero improvvisando. Invece lui aveva in mente tutto e con molti suoni non convenzionali. In sostanza, il suono è qualcosa che si ascolta e la composizione è l'atto di organizzare i suoni. La sfida di raggruppare e organizzare suoni inusuali insieme a suoni normalmente utilizzati è quello che piace fare a me. Lui sapeva unire blues, il rock, la musica orientale, aveva sempre voglia di alzare l'asticella, di portare la musica un po' più in là. Credo che il progresso non sia possibile senza qualche deviazione. Frank Zappa, quindi origine chiaramente italiana, e lui è già un bambino strano all'inizio, e tra l'altro, siccome il padre è chimico, all'inizio non ha subito interesse per la musica, ha interesse per qualcosa di particolare. Quando ero piccolo non avevo un grande interesse per la musica. Dai 5 o 6 anni fino ai 13 mi interessava la chimica, soprattutto gli esplosivi. E forse da lì gli viene un po' questa capacità da alchimista, di mischiare elementi musicali disparati, quindi per creare una musica esplosiva. Quando a 13 anni comincia a interessarsi veramente alla musica, la sua prima passione è la batteria, poi scopre la chitarra, anzi per la precisione la chitarra blues. Ho iniziato ad interessarmi al suono della chitarra blues. Ma quando ascoltavo quelli che suonavano la chitarra, non era mai la musica che volevo sentire. Così ho imparato a suonarla io. Ho iniziato che avevo 18 anni e per un po' ho suonato solo ed esclusivamente musica blues. La famiglia Zappa è una famiglia che viaggia per il lavoro del padre. Insomma, alla fine approda in un paesino che si chiama Lancaster, quei posti un po' alla Zabriskie Point, spersi in mezzo al nulla, e quindi per un adolescente è un impatto abbastanza difficile. I moved from San Diego to Lancaster. Ci trasferimmo da San Diego a Lancaster. Non c'era un gruppo musicale di teenager al liceo, così misi insieme una band multiraziale che non piaceva alla gente del luogo. Tutti un po' cowboy. Cercammo di suonare in varie situazioni e ricordo che la prima volta che dovevamo esibirci venni arrestato per vagabondaggio la sera prima del concerto, solo perché stavo camminando per la strada a Lancaster. La verità è che mettendomi in cella per vagabondaggio speravano di fermare il concerto rock. Ma nessuno riuscirà a fermare Frank Zappa, anche perché lui è uno che non sta fermo un attimo, continua, studia musica, impara, assorbe tutto quello che può assorbire. Per il resto in realtà non è uno studente modello. Mentre frequentavo il liceo, avevo la possibilità di ascoltare registrazioni e dischi di musica contemporanea. E poi andavo in biblioteca, dove prendevo libri che insegnavano a scrivere la musica, quelli che mostravano come si scrivono le note e cosa significassero i simboli. E ho imparato su quei testi. Eh sì, qui c'è già una scoperta molto importante, perché in biblioteca lui si approccia a un compositore di musica contemporanea italo-francese che si chiama Edgar Varese, Varese per gli americani, Varese per i francesi. È un amico di Picasso, di Cocteau, insomma è un tipo che sta segnando la musica contemporanea. La mia esperienza musicale e compositiva è iniziata al liceo quando ho sentito un album di Edgar Varese. Mi sono detto: accidenti, questo è fantastico, voglio scrivere qualcosa così. E Zappa diventa un vero e proprio fan di Varese, assilla la madre perché vuole telefonare al compositore, chiede come regalo per il suo 15° compleanno proprio di parlare con Edgar Varese, e però non ce la fa, perché quando trovano il numero di casa, questo è in tournée in Europa, parla solo con la moglie, insomma quelle tipiche delusioni da adolescente, ma questo non va a spegnere la devozione di Frank Zappa per questo musicista. Il falco e il gabbiano. Abbiamo lasciato Frank Zappa, ragazzino che diventa un fan del musicista classico italo-francese Edgar Varese, e da questo impara un approccio diverso con la musica, perché Varese insomma aveva l'abitudine di utilizzare gli strumenti con una orchestrazione apparentemente disordinata, in realtà molto innovativa. Bene, Zappa non ama tutto ciò che è convenzionale, e in qualche modo tutta la sua vita sarà una battaglia contro quello che è già sentito, contro quello che è convenzionale, il vero e proprio bastian contrario del rock. E anche secondo la seconda moglie di Frank, Gail, questo era veramente il suo desiderio principale. Credo che la cosa che lo interessava di più era soprattutto di educare gli ascoltatori a sentire davvero e imparare a essere tolleranti nei confronti di nuovi suoni. Anzi, addirittura sperava che cercassero e pretendessero nuovi generi musicali. New musical events to occur. La mente aperta di Frank Zappa lo porta a ascoltare tutti i generi possibili, dalla musica nera alla musica classica, a mischiare tutto senza regole. Più tardi iniziai ad ascoltare musica del Tibet, musica indiana, del Medio Oriente. Dopodiché ho iniziato a sintetizzare a caso le cose che mi piacevano. E il linguaggio musicale che oggi utilizzo arriva da tutte quelle esperienze. Arrivano un po' di novità. Intanto si trasferisce a Los Angeles, poi sposa Kay Sherman e poi comincia a fare cose tra le più disparate, tra cui due colonne sonore per film piuttosto improbabili, che in qualche modo però gli permettono di presentarsi come compositore. E finalmente, quando va ospite in uno show televisivo americano anni dopo, lo Steve Allen Show, in qualche modo fa già un'altra cosa piuttosto strana, cioè va a suonare una bicicletta, quindi una performance sui generis. Frank Zappa, Z-A-P-P-A, eh? Frank Zappa, Z-A-P-P-A, vero? Da quant'è che suoni la bicicletta, Frank? About 2 weeks. Da circa 2 settimane. What do you do ordinarily besides this? Che cosa fai normalmente, Frank? I'm a composer. Sono un compositore. Questo è Frank Zappa che sta debuttando in televisione suonando una bicicletta. Bene, si comincia a capire che Frank Zappa ha voglia anche e soprattutto di stupire il pubblico. Intanto si sviluppa un'altra caratteristica precisa di Frank Zappa, che è l'odio, il fastidio per il potere, per l'ordine costituito, per la legge. Forse tutto è nato perché nel 65 viene arrestato per sbaglio, si fa una settimana di galera proprio semplicemente per un disguido, però questo fastidio per tutto ciò che è potere rimarrà in tutta la sua vita personale e artistica. Per capire Frank Zappa bisogna pensare che la sua prima band, che si chiama The Mothers, le madri, in realtà sottintenderebbe la parola motherfuckers, che è, insomma, fatevela tradurre da qualcuno, è sicuramente una parola tesa a stupire, a scandalizzare. Il gruppo inizia a suonare in giro, viene notato da Tom Wilson, che è un famoso produttore della MGM, vuole metterli sotto contratto. Ovviamente il nome della band diventa subito il primo problema per i discografici. Finalmente la MGM ci fece un contratto discografico, ma degli imbecilli della MGM decisero che il nome Mothers fosse brutto per una band e che nessuna radio avrebbe messo in onda i dischi di una band con un nome così osé. Quindi, per cause di forza maggiore, dovemmo cambiare il nome in Mothers of Invention, come se aggiungendo giusto due parole potessimo far felice la casa discografica. Ma ovviamente le stazioni radio non mandarono in onda il disco in ogni caso, perché il problema non era il nome, ma quello che cantavamo e il genere di musica che facevamo. Eh sì, perché il genere di musica, in un momento in cui funzionano canzoni magari geniali, ma estremamente melodiche, pensate ai Beatles su tutti, il genere di musica è diverso. L'album di debutto di Frank Zappa and the Mothers of Invention si chiama Freak Out e esce nel 1966. È pieno di invenzioni, spazia dal blues al jazz, all'avanguardia. Forse lo si può definire uno dei primi concept album. Sicuramente è pieno di riferimenti satirici e di pensieri assolutamente particolari e comunque molto legato alla realtà, anche se in maniera assolutamente surreale e cioè zappiana. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di un musicista geniale, rivoluzionario, assolutamente unico nel suo genere, come ci ha detto anche il nostro ascoltatore Maurizio Costacurta all'inizio della trasmissione, ha centrato il punto. Frank Zappa è assolutamente irripetibile. I testi delle sue canzoni poi sono iconoclastici, sono ironici, non hanno freni, prendono in giro il modo di vivere degli americani, il potere conservatore, le major discografiche, le radio, i canali, in un mix di geniale e surreale grande musica. Radio and MTV. Considerando quello che sono le radio ed MTV, non c'è spazio per quello che faccio io. Li faccio impazzire. Non vogliono sapere quando esce un mio disco. Lo vogliono sapere perché sono spaventati da quello che dico nel disco. Because they're afraid of what's said on the records. E in effetti, già dall'uscita del primo album, inizia una guerra che non verrà mai risolta. Frank Zappa da una parte, le radio dall'altra, perché la musica è troppo particolare per essere trasmessa. Lui le radio non le sopporta, esprime il concetto in modo molto chiaro. Per esempio, nel suo secondo album, che si chiama Absolutely Free, nel 1967, sulla copertina mette la frase Kill Ugly Radio, uccidi la brutta radio. Non so se mi spiego. Pensate a un musicista oggi che fa una cosa del genere, verrebbe, finirebbe in qualche pilone dell'autostrada. E poi c'è la parte più strana, quella delle canzoni assolutamente senza senso, almeno apparentemente senza senso. Per esempio c'è una canzone che si chiama Call Any Vegetables, che parla proprio di quanto facciano bene le verdure, diciamo così. Questa è una canzone sulle verdure, ti fanno andare in bagno e sono ottime per la salute. E poi c'è un altro giro di vita, un altro salto di qualità. Nel 67 Frank Zappa parte con uno spettacolo che si chiama Pigs e Ripugnant, cioè porci e ripugnanti, e sul palco succede qualsiasi cosa, è una vera e propria kermesse, un'installazione, il pubblico viene coinvolto nello spettacolo, gli si spruzza addosso della panna, insomma si producono suoni completamente diversi da quelli che la gente è abituata a sentire, e tutto funziona perché lo spettacolo, malgrado tutto, o forse proprio per questo, ha un grande successo. La notorietà dei Mothers of Invention comincia a crescere. E ascoltando la follia delle composizioni di Zappa, questa stranezza, questo mondo stralunato in un scenario in cui le droghe, l'LSD, la cannabis cominciano a prendere piede, potremmo essere portati a pensare che Zappa sia un altro cantore della droga. Invece no, perché lui fin da giovanissimo è stato sempre contro tutte le droghe di tutti i tipi. Ho notato che quando gli americani consumano droga, istantaneamente si trasformano da esseri umani normali in idioti scatenati. Diciamo che non li voglio intorno a me. La regola della band è che se sei in tour non usi droga. Quello che fai a casa tua sono fatti tuoi. In compenso, per tutta la vita Zappa ha fumato come un turco. Non c'è un'intervista che non lo mostri con una sigaretta in mano. Il tabacco è la mia verdura preferita. E poi arrivano altri album fantastici con un gruppo che si scioglie e si rimette assieme perché i problemi finanziari ci sono, perché chiaramente Frank Zappa non suona una musica che piace a tutti. Poi nel 70 c'è una reunion con un'aggiunta di due elementi molto importanti. Uno lo ha citato anche il nostro amico all'inizio, Ian Underwood, che diventerà da quel momento il braccio destro di Frank, è un polistrumentista. E poi c'è un pianista jazz che si chiama George Duke, che però all'inizio è un pochino perplesso dal metodo Zappa. Sentiamo proprio George Duke. Pensavo che avremmo suonato musica molto evoluta, musica con grandi orchestrazioni. Invece lui ci chiese di suonare questo motivo. Così gli dissi che non potevo. Lui mi chiese: cosa c'è che non va? Io risposi che non potevo farlo. E lui continuò: perché? Ti fanno male le mani? E io: no, è che proprio non posso suonare una cosa così. E lui: oh, intendi che non è alla tua altezza? Ecco, la cosa più importante che ho imparato da Frank e che mi ha aiutato a rompere quelle ridicole barriere che avevo nei confronti della musica. Eh sì, la grande lezione di Frank Zappa è proprio quella: suonare cose semplicissime e cose complicatissime con lo stesso atteggiamento. Intanto però arrivano un po' di guai, perché il primo è quello celeberrimo, il concerto in Svizzera al Festival di Montreux, il teatro prende fuoco e gli strumenti vanno in fumo con grandi conseguenze disastrose anche per tutta la band. Parlo dell'incidente famoso perché è quello sul quale i Deep Purple poi scriveranno Smoke on the Water, perché dovevano andare loro poi a suonare lì e a fare il disco, insomma, e tutto si risolverà per il bene. Ma non è l'unica grana che Frank Zappa deve affrontare, perché durante un concerto a Londra viene aggredito da uno spettatore ubriaco che lo trascina giù dal palco. Per un attimo gli altri componenti della band pensano che sia morto, non è così, però riporta molte fratture anche brutte e poi un trauma alla laringe, e la conseguenza è che dopo una lunga degenza è che da quel momento la voce di Zappa cambia completamente, si abbassa, forse diventa anche più affascinante, e lui nel frattempo continua a registrare. Frank registrava sempre, tutto doveva essere documentato, tutto doveva essere registrato. E così gli album di Zappa che si susseguono, per cui lui ha un ritmo frenetico nel registrare, e passano dal rock al jazz alla sperimentazione a una musica un po', diciamo, rock comico. E prima sono stati citati Elio e le Storie Tese, che sono tra i figli di Frank Zappa. O nel frattempo lui si era sposato nel 67 con Gail Slotman e trova anche il tempo per mettere al mondo 4 figli, a cui dà i nomi più improbabili: le femmine Moon, Unit e Diva, e i maschi Dweezil e Ahmet. E l'apertura mentale di Zappa sfocia in collaborazioni sempre imprevedibili, per esempio i grandi interpreti classici come i direttori d'orchestra Zubin Mehta e Pierre Boulez. E Pierre Boulez dice di lui cose particolari. Per Frank Zappa verrà il tempo in cui gli verrà riconosciuto il giusto merito, ossia di essere uno dei più grandi compositori del Novecento. E poi c'è un disco con la London Symphony Orchestra e lo presenta al David Letterman Show, naturalmente lo presenta alla sua maniera. Come sei riuscito a far suonare le tue composizioni alla London Symphony Orchestra? You pay them. Li paghi? Ma è vero che è un'orchestra davvero strepitosa? Of course. Certo, infatti li pago un sacco di soldi. Beh, la verità è un'altra, che lui è un musicista che va iscritto al registro dei grandi compositori contemporanei, insieme al suo amato Varese, a John Cage, a Stravinsky, a Stockhausen. A volte il mondo musicale tradizionale fa un po' fatica a riconoscerlo, meno male che ci pensa la moglie a rimettere le cose in ordine. Mi piace dire che ero sposata con un compositore, perché questo faceva. Scriveva musica tutti i giorni, era la sua vita. Diceva questa cosa, diceva di essere un uomo con una vita noiosa perché si limitava a unire dei puntini sulla carta. E gli piaceva anche dire che metteva in connessione i punti, il che era esattamente il suo modo di essere compositore. Per uno come Frank Zappa le giornate dovrebbero durare 26 ore minimo, perché lui fa un sacco di cose, perché non si limita a comporre, si impegna per esempio anche in politica, pur non essendo contro il capitalismo di per sé, sicuramente è contro a molte delle politiche repubblicane di presidenti come Reagan e Bush. A un certo punto considera addirittura l'ipotesi di candidarsi lui stesso in maniera provocatoria come presidente degli Stati Uniti, ha sempre invitato i giovani a votare per cambiare le cose. Il suo è stato uno spirito libero, anticonformista, ha sempre creduto nella libertà di espressione, si è perfino presentato come testimone contro un comitato fondato da Tippi Gore, la moglie del ex vicepresidente di Clinton Al Gore, perché questa Tippi Gore chiedeva un sistema di controllo sui testi delle canzoni. Quello che proponiamo è che nei punti vendita ci sia un'etichetta generica che informi i consumatori sui contenuti dei testi. Stabilire un sistema di valutazione, sia volontario che non, apre la porta a un programma senza fine di controllo sulla morale. E Frank Zappa continua a fare un sacco di dischi. Io sono stato nella sua casa discografica, o meglio, la sua casa discografica era distribuita in Italia dalla mia, e veramente ogni 2-3 mesi arrivava un album nuovo di Frank Zappa o la notizia che lui era tornato in studio a registrare. Questo fino al 90. Nel 90 gli viene diagnosticato un cancro alla prostata incurabile e in fase terminale. In realtà questo cancro era progredito per 10 anni senza che nessuno se ne accorgesse, medici compresi. Bene, lui va avanti come se niente fosse, continua la sua attività di compositore. L'ultimo suo album si chiama The Yellow Shark, vede la collaborazione con gli Ensemble Modern, che sono degli esecutori di musica classica che, pur di suonare con Zappa, si autotassano, partono da Francoforte per arrivare negli Stati Uniti a fare il disco. Bene, nonostante queste testimonianze di stima, lui non riesce mai a sentirsi parte dell'establishment classico americano. Non c'è posto per me nella musica seria americana. Cosa potrei mai fare lì? Non socializzo con quel genere di persone, quelle che sono profondamente coinvolte solo nel loro spazio culturale. Tutto quel loro mondo non ha alcun fascino per me. Whole world doesn't appeal to me. Il 4 dicembre 1993, 15 giorni prima del suo 53esimo compleanno, Frank Zappa muore, circondato dalla famiglia, Gail, i figli, e in una delle ultime interviste che concede, la giornalista gli chiede come vorrebbe essere ricordato. Bene, lui è ancora una volta provocatore, ironico e iconoclasta. Non mi importa se sarò ricordato. La gente che si preoccupa di essere ricordata è gente come Reagan o Bush. Questo è il genere di persone che vogliono essere ricordate. Frank Zappa, una persona che ha fatto del suo genio una bandiera da sventolare in faccia al perbenismo americano. E ha volato in alto, ha scritto cose, è andato dove nessuno aveva osato volare. È riuscito, ha avuto forse cadute, risalite, ma sicuramente ha segnato un'epoca. Se volete mandare dei vostri commenti o consigliarci qualcosa, come ha fatto oggi Maurizio Costacurta di Genova, fatelo. Scrivete al Falco il Gabbiano chiocciola radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it, venite nei miei social, nei social di Radio 24. Insomma, se volete, mi trovate. Ciao, a lunedì.